in primo piano. Le 7:32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Come sempre in questo spazio ci così scorriamo insieme le prime pagine dei quotidiani e qualche approfondimento per vedere un po' che cosa si trova oggi in edicola o online a seconda del vostro modo di consultare i quotidiani. Iniziamo da Sole 24 Ore, iniziamo dal titolo di apertura: ecobonus, assalto di 413 emendamenti, decreto rilancio, maggioranza e opposizioni, lavori fino al 2022, estensioni a hotel e spa, meno vincoli. Da Fraccaro, prima risposta del governo, disponibili ad allargamenti. Questo un po' la situazione così riassunta dal Sole 24 Ore. Vediamo qualche dettaglio in più. Dal Parlamento arriva la conferma che l'ecobonus al 110% è la partita decisiva del governo, del decreto rilancio. Sono ben 413 infatti gli emendamenti all'articolo 119 che chiedono di riscrivere o integrare il superbonus per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici. Maggioranza e opposizione chiedono l'allargamento dell'ambito di applicazione dello sconto fiscale a seconde case, alberghi e immobili vincolati e l'estensione dei lavori al 2022. Gli approfondimenti poi sono curati da Marco Mobili nelle pagine interne. Ma prima di andare alle pagine interne, dove tra l'altro parleremo di bici, perché credo sia un tema di interesse piuttosto diffuso visto il boom che hanno avuto le vendite di biciclette, monopattini, contando probabilmente anche sul bonus. Dicevo, prima di quello vediamo altri titoli dalla prima pagina di apertura del Sole 24 Ore: effetto lockdown sulle entrate fiscali, c'è un calo di 5,6 miliardi. L'IVA in flessione del 37%, Banca Italia dice quest'anno il PIL perderà il 9,2%. Che potrebbe toccare anche il 13,1 nel caso di nuovi lockdown, in caso quindi di una seconda ondata. Centropagina, mercati, Milano torna sopra quota 20.000, insieme siamo forti. La fotografia ritrae la borsa però di New York, dove il presidente Trump ha esultato per il rally della borsa ieri. Occupazione Stati Uniti in crescita e le borse mettono il turbo. Poi c'è un'intervista del direttore Fabio Tamburini alla D del gruppo Poste, del Fant, e-commerce e digitale hanno spinto Poste, leggiamo. L'emergenza sanitaria ha avuto conseguenze pesanti anche per il gruppo, ma è stata l'occasione per una crescita importante di due aree di attività, l'e-commerce e il digitale, con l'accelerazione dei trend previsti dal piano industriale 2018-2022. Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, fa un primo bilancio post-Covid-19, mentre l'aggiornamento dei numeri aziendali è previsto nell'ultimo trimestre dell'anno. In settori cruciali siamo in anticipo sugli obiettivi di quasi due anni, ha spiegato. Sono stati raggiunti traguardi impensabili fino a pochi mesi fa. Oggi il gruppo, secondo Del Fante, smista giornalmente in Italia circa 1 milione di pacchi, lo stesso numero del picco di consegne del Natale scorso. E questo ovviamente è legato al numero di ordini che sono stati fatti in questo periodo di lockdown da persone che appunto ordinavano su internet e chiedevano la consegna a casa, non potendo andare di persona in negozio. Dicevo, poi torniamo sulla questione click day per il bonus biciclette, rimborsi solo con la fattura. Ci torniamo dopo, vediamo prima le altre prime pagine. Dal Corriere della Sera: ripresa, sfida tra PD e Conte, lettera del Premier di Sanchez a Bruxelles, riaprire i confini, tedeschi in Italia dal 15. C'è sfida nella maggioranza sulla ripresa, il PD chiede al Premier Giuseppe Conte più coinvolgimento su questi stati generali. Il fatto che il Premier abbia annunciato l'evento mediatico in conferenza stampa senza prima averne parlato con i partiti che lo sostengono ha inasprito i rapporti nel governo. Tra le misure per il rilancio economico, il super bonus per le ristrutturazioni riguarderà anche le villette. Sul decreto scuola scoppia la bagarra alla Camera, asse tra Roma e Madrid per fare pressione sull'Unione Europea e chiedere la riapertura dei confini. A questo proposito vediamo qualche passaggio dell'articolo di Monica Guerzoni: Conte e la lite sull'economia, il paese non può aspettare. Le tensioni appunto nella maggioranza sugli stati generali. slittano gli stati generali dell'economia che Giuseppe Conte aveva immaginato per dimostrare ai vertici dell'UE che Roma ha un progetto lungimirante, condiviso con tutte le migliori risorse del paese. In realtà questo progetto, che condiviso proprio non è e che dovrebbe indicare come l'Italia intende spendere i 170 miliardi del Recovery Fund, esiste solo a grandi linee. E il fatto che il Premier lo abbia annunciato spiazzando i vertici dei partiti ha inasprito i rapporti nella maggioranza. La sfida di Dario Franceschini al professore Pugliese ha fatto notizia e confermato che la pazienza del PD è agli sgoccioli. Il malumore che covava dalla sera del 3 giugno, quando il Premier dal cortile di Palazzo Chigi aveva chiamato a raccolta imprenditori, parti sociali, terzo settore e singole menti brillanti, è esploso nella riunione con i capi delegazione dei partiti: Franceschini, Bellanova, Fraccaro, Laura Castelli al posto di Bonafede, Cecilia Guerra al posto di Speranza, più Gualtieri e Patuanelli. Un vertice che a suon di critiche per la mancanza di una visione e alzate di tono per la trovata non concordata ha convinto il capo del governo a tirare un poco il freno. E quindi, insomma, se questa è la situazione un po' dipinta, appunto, vi ho letto solo qualche passaggio di questo articolo di Monica Guerzoni, comunque ben tratteggiata, ecco, se questa è la situazione, a questo punto andiamo a Repubblica, che apre PD processo a Conte. Questo è il titolo: governo diviso. I ministri Gualtieri e Franceschini attaccano il Premier, nessuna condivisione dei piani per l'economia, scontro anche sulle proposte di Colao, lotta alla burocrazia e scudo penale alle aziende in caso di Covid. Ecco, se questo è il titolo di apertura di Repubblica, vi leggo qualche passaggio di quanto scrive l'economista Alessandro Penati, il fantasma di Luigi XVI, e scrive: «Ho appreso con una certa apprensione la notizia della solenne convocazione degli Stati Generali da parte del primo ministro Conte. I ricordi liceali mi hanno riportato alla memoria gli Stati Generali convocati da Luigi XVI nel maggio del 1789 per riunire tutte quelle che oggi chiameremmo parti sociali ed avere da loro indicazioni su come metter fine alla grave crisi economica e sociale della Francia ed evitare il dissesto delle finanze pubbliche». Suona familiare? Come andò a finire lo sappiamo, la guerra è degenerata in una sanguinosa rivoluzione. E nella pagina 28 prosegue l'articolo di Alessandro Penati, che dipinge un po' tutta la situazione, le sue preoccupazioni, e in particolare così sottolinea la grande quantità, anche lui eccessiva quantità, di task force e comitati, e il fatto che non è tanto una questione di soldi qui, è una questione di come spendere i soldi. «Sarò ingenuo», scrive infatti, «ma non mi pare siano i soldi il principale ostacolo alle riforme. Se le carriere nella ricerca e nelle università non sono basate sul merito, se i servizi legislativi dei ministeri scrivono norme incomprensibili o comprensibili solo ai mandarini e non si preoccupano della loro attuazione, se gli enti pubblici non sono capaci di fare appalti e progetti, se si può fare una causa senza fondati motivi e non c'è certezza del diritto nei vari gradi di giustizia, se i vertici delle strutture sanitarie dipendono dalla vicinanza a chi governa la regione, se abbiamo un sistema fiscale di welfare che ci obbliga a ricorrere a CAF o patronati o commercialisti per capirci qualcosa, non è perché non abbiamo abbastanza soldi, ma perché non abbiamo mai avuto abbastanza organizzazione, responsabilità, meritocrazia. Temo quindi che fra 3 anni saremo ancora qui a invocare le riforme, ma con tanti debiti in più». Questa è la preoccupazione che evidenzia Penati su Repubblica. Andiamo alla stampa. CIG garantita per tutto il 2020. Questo è il titolo di apertura. Conte pensa a una manovrina in deficit per evitare il MES sugli Stati Generali e scontro con il PD. C'è poi intervista alla ministra del Lavoro Catalfo. Non temo problemi di ordine pubblico. Useremo i 20 miliardi della UE. Due commenti: una politica in stato di minorità, Massimo Recalcati, abbiamo bisogno del pensiero lungo, scrive, e anche Elsa Fornero con Giovanni Nicodano, il database della crisi economica, un compito per la task force di Colao. Ma c'è anche un fatto di cronaca ricordato sulla stampa con la fotonotizia del funerale della bambina di 17 mesi morta lo scorso 17 febbraio. A Aosta la bimba muore dopo la visita, l'ospedale chiede il ticket ai genitori. È successo infatti che appunto la piccola, dopo molti avanti e indietro dall'ospedale di Aosta, è stata trasferita a Torino quando ormai era in fin di vita, lì è morta, ma ai genitori nel frattempo è stata notificata la necessità di pagare il ticket perché la bambina era stata ammessa in codice bianco all'ospedale di Aosta e quindi dovevano i genitori soddisfare questo requisito, il pagamento del ticket. Sulla stampa tra USA e Cina, lo spettro della guerra, ne scrive Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, la rivista di geopolitica. Stati Uniti e Cina sono su un piano inclinato che, se non raddrizzato, sfocerà in guerra. Gli apparati strategici dei due imperi stanno responsabilmente studiando tale eventualità e prendendo relative misure per natura segrete. Su questo sfondo conviene interpretare la tempesta che scuote l'America. È citata dall'assassinio di George Floyd, ma innescata dalla strage da coronavirus e dalla conseguente recessione, perciò destinata a spargere sale sulle ferite aperte dalla faglia razziale che da sempre divide la nazione. La crisi in pieno corso svela quanto rischiosa sarebbe per gli Stati Uniti l'avventura bellica. Caracciolo appunto poi ne scrive, si prosegue con me la pagina delle lettere, delle idee, quindi che riporta molti commenti, a pagina 21, e in particolare sottolinea Caracciolo che la questione è che l'opinione pubblica in questo momento non sostiene il presidente, come del resto neanche l'apparato militare. In questo momento è stato evidenziato da varie dichiarazioni dei generali statunitensi all'idea di Trump di far intervenire l'esercito, ne abbiamo lungamente parlato. Per l'impero americano fondato sulla strapotenza militare, la disputa tra il comandante in capo e le sue truppe è il peggiore degli scenari possibili, conclude Caracciolo. E forse proprio per sanare questa frattura, una guerra, magari non contro il rivale più impegnativo, potrebbe tentarne i leader, contando sul soprassalto del patriottismo americano. Allora vi do anche conto del titolo del Messaggero prima di passare alla viabilità. Stop del PD al tavolo di Conte, questa è l'apertura. Franceschini contro l'iniziativa solitaria del Premier, gli stati generali sulla ripresa slittano da lunedì a mercoledì, però quindi uno slittamento relativo. Tensione anche sull'utilizzo immediato del MES, ecobonus allungato per le seconde case. Al centro pagina si ritorna sulla questione degli Stati Uniti, muro di Trump alla Casa Bianca, e finalmente Trump ebbe il suo muro, questo è il commento dopo che la Casa Bianca è stata circondata da una barriera d'acciaio nero alta 2,5 metri. E poi il balzo dei contagi in Lombardia e ancora Roma 13 positivi, una clinica isolata. La struttura del Portuense è focolaio, c'è anche un morto in questo momento, nessuno entra, nessuno esce e tamponi per tutti. Andiamo alla viabilità e poi proseguiamo. In primo piano. Ancora una buona giornata da Laura Bettini, andiamo sulle pagine del Quotidiano Nazionale a questo punto. Sul lockdown abbiamo sbagliato, la missione di Venturi, l'uomo che ha battuto il virus in Emilia, un errore chiudere tutto, non lo rifarei. Il sociologo, la ripartenza non c'è perché la gente ha ancora paura, gli imprenditori regole capestro, questo un po' Il tema portante per il Quotidiano Nazionale, che però al centro pagina mette una vicenda che ritroverete su molti quotidiani oggi, questa della maestra Francesca Sivieri di Prato che legge favole ai bambini nel parco, ma è stata ampiamente criticata da una parte dei sindacati perché dicono così fa sfigurare i colleghi che non fanno altrettanto. Noi tra l'altro l'avremo ospite oggi a Si può fare attorno alle 9:45, parleremo con lei non tanto della polemica ma di come è nata quest'idea e di come e quante ormai maestre e mamme abbiano un po' preso esempio da lei e abbiano cominciato a leggere ai bambini nel parco, quindi riorganizzare un pochino la vita sociale di questi piccoli dopo tanti mesi in casa. Andiamo poi su Quotidiano Nazionale. Così uccide il Covid, scoperta della Bicocca, Università Milano Bicocca, che rivoluziona le terapie e il meccanismo delle trombosi che appunto sono colpevoli di molte morti da Covid. Ma nelle pagine del Quotidiano Nazionale oggi c'è anche un attacco, un rinnovato attacco al modo con cui vengono diffusi i dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Un attacco che arriva dall'Accademia dei Lincei, un'istituzione scientifica che tra l'altro è tra le più antiche in Europa, istituzione scientifica italiana tra le più antiche in Europa, il cui presidente sfida un po' l'Istituto Superiore di Sanità e dice: nei dati ufficiali troppe lacune anche sulla data dei decessi. Giorgio Parisi si chiama il presidente e l'intervista è di Alessandro Malpelo. L'Accademia Nazionale dei Lincei, che lei presiede, lamenta scarsa trasparenza nella divulgazione delle statistiche sul Covid. Perché? Perché dalle conferenze dell'Istituto Superiore di Sanità o dai report della Protezione Civile escono resoconti e giudizi conclusivi. Mancano i punti di partenza e la comunità scientifica deve avere accesso ai dati originali. Prendiamo il numero dei decessi, un parametro utile per capire come sta andando l'epidemia. E dice l'intervistatore, abbiamo letto ieri di 85 morti per coronavirus. E invece no, quello è un dato impreciso, risponde Parisi. Si riferisce al giorno in cui arriva la comunicazione statistica, ma non sappiamo quando quelle persone sono effettivamente mancate. Ignoriamo inoltre quando sono state contagiate, per quanti giorni sono state ricoverate, l'entità del quadro clinico. In altri paesi europei questi dati sono di dominio pubblico. Altre stranezze, si comunica un picco al mercoledì, sono chiaramente ritardi, a volte entrano nella statistica numeri vecchi, ma sono tante le informazioni che la commissione Covid dei Lincei auspica che siano rese pubbliche sui guariti, sui ricoveri, sulle sintomatologie, gli esiti, insomma una serie di critiche sicuramente fondate, sicuramente se la comunità scientifica ha bisogno di questi dati dovrebbero essere messi, credo, a disposizione. Andiamo al giornale. I sindacati dell'ignoranza, questo è il titolo. Chi boicotta la scuola, gogna per chi vuole insegnare, scioperi a difesa dei privilegi, cari prof, i vostri nemici sono loro, e una ministra inadatta. Il riferimento anche qui è alla maestra di Prato di cui dicevamo prima. E poi grandi manovre tra Palazzo e regionali, Berlusconi condizioni a Conte, Salvini tentato dallo strappo. Collaborazione istituzionale non significa convergenza politica, né larghe intese. Silvio Berlusconi ribadisce la posizione dialogante di Forza Italia con il governo Conte, differenziandosi ancora una volta dagli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il progetto delle leader del centrodestra è articolato e contempla dialogo con la maggioranza in cambio di riforme come il taglio delle tasse, l'utilizzo del MES, la nuova legge elettorale. Una posizione che avrebbe indispettito il leader della Lega, tentato ora dalla corsa in solitaria alle prossime regionali. Il manifesto, apertura nel piano Mittal, ci sono 4.900 esuberi, ArcelorMittal svela le carte e manda al governo il nuovo piano industriale 2020-2025, 6 milioni di tonnellate d'acciaio previste, erano 8 a marzo, e lacrime e sangue per gli operai, ricorda il manifesto. Centropagina, la fotonotizia, natura morta. Il disastro ecologico purtroppo in corso senza precedenti in Siberia, ne avrete forse sentito parlare, l'allarme delle stesse autorità russe nella giornata internazionale dell'ambiente che era ieri. Le 21.000 tonnellate di petrolio fuoriuscite da un deposito siberiano hanno avvelenato il fiume Ambarnaya e migliaia di ettari di terreni. Letale il ritardo della dichiarazione di emergenza, anche l'Artico è a rischio. Io ieri ho sentito un Putin molto indispettito che con il governatore della Siberia diceva: ma dobbiamo venirlo a sapere dai social network che c'è un problema. Vero o no, il ritardo c'è stato, senza dubbio. Libero. Cassa disintegrazione, questo è il titolo di apertura. 8 milioni di italiani a casa, la strategia del governo di far ripartire il paese a botte di sussidi è disastrosa. Abbiamo bruciato 22 miliardi in bonus, spesso non pagati. L'INPS è sull'orlo del fallimento, ne scrive Sandro Iacometti. Poi c'è l'orsa M49, vita da orso in gabbia, le pene di M49 svelate dal suo carceriere, ne scrive Miriam Romano nelle pagine interne. Da 2 mesi è chiuso in un recinto di pochi ettari, beve, fa il bagno in una vasca artificiale, soffre in silenzio in attesa di tornare libero. Questo è un po' il succo del racconto, diciamo. La verità, Conte mette i nostri figli in una teca di plastica, la folle idea per la riapertura delle scuole a settembre, alunni separati da pareti di plexiglass per proteggerli dal virus, che sotto una certa età è praticamente innocuo, scrive La Verità, e di cui non sono gli untori, lo dimostrano gli studi. Poi, sui BTP, ritardo doloso per creare la crisi, durissima accusa di Bagnai, presidente della Commissione Finanze, ci vogliono incatenare all'UE. E ancora al centro pagina una fotografia di Zingaretti. Zingaretti vuole che l'Italia dichiari il rischio fallimento. Andiamo ad Avvenire, pianeta saccheggiato, quindi l'apertura ricorda la giornata mondiale dell'ambiente di ieri, il grido di Francesco, le ferite alla terra sanguinano in noi, la cura inseparabile dalla fraternità, è stato il maggio più caldo di sempre, Mattarella, legame stretto tra natura e nostra sopravvivenza. E poi ricorda dal conflitto per l'acqua della diga sul Nilo Azzurro allo scioglimento del permafrost con sversamento di petrolio in Russia, appunto sono tutte le crisi più recenti in atto. Su Avvenire troviamo poi anche un'ampia pagina dedicata ai rider essenziali ma senza tutele. I ciclofattorini tornano a chiedere con insistenza un contratto nazionale. Siamo a pagina 10 e a pagina 10 di Avvenire sarà un weekend di sciopero, niente consegne al piano. Così apprendiamo, uno sciopero delle consegne al piano per denunciare la mancanza di presidi di sicurezza adeguati. I rider scelgono una forma di protesta simbolica per spiegare ai clienti le proprie motivazioni. Non sono pervenute le forniture dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, gel sanificante, alcol per i cassoni, alla maggior parte dei lavoratori, mettendo così in serio pericolo sia la salute dei rider e dei loro familiari che quella dei clienti che utilizzano il servizio di consegna a domicilio. È il messaggio lanciato su Facebook dalla rete nazionale Rider per i diritti. E dunque a questo punto vi riporto sul Sole 24 Ore, perché abbiamo indietro la questione biciclette, di cui scrive Maurizio Caprino, che anche gli ascoltatori di Radio 24 ben conoscono, click day per il bonus biciclette. Di fatto sarà un click day per assegnare i 120 milioni messi a disposizione dal decreto legge rilancio per il bonus bici. Varrà l'ordine di arrivo delle domande, da presentare una piattaforma ministeriale tramite un'app dedicata, come prevede la bozza di decreto ministeriale attuativo anticipata ieri sera su internet da sole24ore.com. E visto che la richiesta è fortissima, c'è un articolo di Pierangelo Soldavini in cui a fianco proprio si ricorda come sono raddoppiate le vendite di biciclette, quindi la richiesta sarà probabilmente fortissima e il bonus è previsto non solo per chi compra bici anche a pedalata assistita, ma anche per chi sceglie monopattini elettrici, hoverboard, segway, monowheel, eccetera, eccetera, o abbonamenti a servizi di sharing di mezzi di trasporto diversi dalle auto. Gli addetti ai lavori prevedono che i soldi finiranno subito. Il bonus copre il 60% con un massimo di 500 euro della spesa sostenuta da residenti maggiorenni in capoluoghi di regione o provincia e comuni appartenenti a città metropolitane o con più di 50.000 abitanti. Il bonus consentirà di ottenere uno sconto in fase di acquisto da uno dei commercianti accreditati sulla piattaforma, ma bisogna avere tutti i requisiti, avere la fattura, e nel caso uno non ce l'abbia, chi ha lo scontrino può provare a chiedere al venditore di annullarlo, ma si ritiene possa farlo solo entro il 15 giugno. Allora, come vedete, ci sono tante richieste e tante possibilità, ma c'è il click day, quindi bisogna muoversi e soddisfare tutti i requisiti. Sul Sole 24 Ore ne scrive, ricordo, Maurizio Caprino, pagina 5. Noi ci dobbiamo fermare, ci ritroviamo con Si può fare alle 8:30, ora c'è GR24.